Problemi tecnici, ormai ci abbiamo quasi fatto Colpa mia. l'abitudine. No, no, no, non è questione di colpe, è questione di madonne, sante, santissime madonne. No, no, no, ma abbiamo quasi risolto, se ci sentite. Se ci sentite, adesso è tutto risolto. Immagino abbiate perso una piccola perla. Che Il nostro spot iniziale che vi rimandiamo. dice? Si Ve lo rimanda, eh. rimandiamo e vediamo chi se lo ricorda in pochi, perché è una perla rara. Poi state attenti, a un certo punto secondo me dice pisciare la vitamina D. Dice Vediamo, qualcosa. vediamo un po'. Sviluppo, quando crescono, i ragazzi hanno un eccezionale bisogno di energia. Per questo oggi c'è latte Parmalat Gran Sviluppo. Latte intero arricchito con ferro, fondamentale per l'organismo in crescita. E con vitamine, come la C, per sfruttare appieno le potenzialità del ferro. E la D3, che aiuta a fissare il calcio contribuendo al corretto sviluppo della struttura ossea. Latte Parmalat Gran Sviluppo tutti i giorni, per crescere meglio. Lo dice. Siamo un po' sciocchine, lo dice, dice anche la ditamina. Pisciamo il calcio, ragazzi, Ma perché perfetto. abbiamo messo questo spot sullo sviluppo dei bambini, scusa? Perché oggi siamo alla nona puntata e parleremo di Ottava. ottava puntata, sì. Non andare avanti coi No, no, tempi, io non vedo l'ora di cara, andare in che devo ferie. ancora ricevere la tredicesima. Io Non non la mi riceverò. fa scorrere il tempo così. E stasera parliamo dei cosiddetti feral child o i cosiddetti altrettanto bambini deprivati, quelli che vengono chiamati erroneamente anche selvaggi. I Bambini privati bambini zasi. privatizzati. Un saluto, visto che questa era la pubblicità del latte Parmalat, un saluto alla famiglia Tanti. E vi che ci domandavamo, ma è ancora vivo Il signor lui? Calisto. Calisto. Calisto Tanzi, ci sei? Facciamo anche una seduta spiritica. Come vedete siamo sempre Come più. vedete, Come soprattutto, sentite, siamo soprattutto brillanti, ci siamo. dicono che siamo brillanti. Mi puoi mostrare lo schermino con la riga blu, per favore? Perché Sì. così capisco se urlo troppo oppure no. Perché qui noi stiamo gestendo tutta questa faccenda, no? Tecnica. Ok. Allora, bene, È sparito. bene, bene, bene. Abbiamo bisogno di un tecnico. Chiamiamo Abbiamo il qui. nostro tecnico in diretta. Allora, abbiamo Proc 2, Un perché saluto a Prog2, che ora che è ci più sbriga bravo di questa noi. faccenda, perché io ho il braccio corto. Io invece è meglio che non metta mano a questo computer. Sakura dice che sta registrando, ma. C'è Proc 2 che si lamenta sempre perché non citiamo mai la sua trasmissione. Ti torna, ma secondo te è un'osservazione carina da farci? Ah Sì, sì? Ha ragione possiamo lui? Scusa fare. In effetti non l'abbiamo mai citato, citiamo sempre 8 un attimo, ma secondo te io ogni volta che dico uff, oi oi, a chi mi sto riferendo? Al rovescio della. medaglia. L'unica trasmissione che chi mette la musica poi se la squaglia! Ma lo diceva anche la zia Diva e la zia Lilia, lo dicevano La anche loro. Lilia! Qua intanto è sparito Io lo so il controllo, è Ah, grande, grazie Proc 2, sei tornato. fantastico! Abbiamo due trasmissioni in corso, siamo sdoppiate, Eh Bubi. sì, perché ora c'è questa cosa qui, una new entry della facciata Oh, ragazzi, ma tecnica. vedeste che meraviglia, questa regia sta prendendo Ah, vita, forma mamma e mia. anche miracoli. Eh sì, Sta facendo anche soprattutto. miracoli. Ecco, infatti ora possiamo vedere che le voci sono un po' altine. Scusate Scusate, se vi abbiamo ma urlato negli purtroppo orecchi. nelle fasi prenatalizie ci sta. Allora, torniamo quindi con i piedi nell'etere. Ecco, Ecco. soprattutto. E Benissimo, benvenuti a tutti. Iniziamo ufficialmente la trasmissione buongiorno, dopo mezz'ora buongiorno a di tutti, catteggio. buongiorno a tutti. Buongiorno. E come dicevamo prima, il tema della giornata, anzi della serata di questa puntata, è appunto sono i cosiddetti feral child, o i bambini selvaggi. chiamati così erroneamente, perché erroneamente? Perché in realtà questi bambini, la maggior parte dei casi che vedremo stasera, perlomeno a parte uno forse, non sono casi di bambini cresciuti nella natura, come potremmo immaginarci, che ne so, Mowgli, il bambino della giungla, ma sono bambini che sono entrati a contatto con l'essere umano. Generalmente si tratta di bambini maltrattati, di bambini che non hanno poi avuto la possibilità di sviluppare il linguaggio proprio per le condizioni di precarietà in cui vivevano. E vedremo anche il perché è un bambino sottoposto agli stimoli, impara a parlare e sviluppa un linguaggio, una lingua, anzi, ben definita e con tutti i crismi. Invece, perché ai bambini che, superata una certa età, non venendo esposti agli stimoli linguistici, poi non riescono a sviluppare invece un parlato e delle capacità, insomma, di comunicazione corrette. Parleremo poi anche del bambino, caso appunto, penso uno dei pochi, almeno in Europa o comunque, del bambino ritrovato in una foresta alla fine del Settecento, primi dell'Ottocento, se non sbaglio vicino a Parigi, o comunque poi è finito a Parigi in un istituto per Il sordi, ragazzo di la Aveyron. Veron, sì, quello lì. Quindi tratteremo entrambe le situazioni che comunque hanno come unico esito appunto la carenza di linguaggio, la mancata Esatto. acquisizione. Quindi, bambini, Con chi bambini. possiamo iniziare la carrellata musicale dell'ottava puntata dell'Accademia della Brusca, se non con il mito generazionale di fine anni 90? Siamo sicuri? La mandiamo? La mandiamo? Ci L'accendiamo? perdonate? Io l'accendo, Sentite che ragazzi. roba, eh? Allora, il primo che indovina entro i 5 secondi vince Vince un il Tony Bloody Blue che ha Mary? una delle tizie qui. Come vorresti che le vostre bambine non diventassero mai? You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends if you want. Che trashata! Questo pezzo lo dedichiamo a Naoto Date di 8 Hertz, che sta ascoltando la trasmissione e la sta ascoltando in bus con le cuffiette, per cui tutti quelli che gli saranno intorno sentiranno cosa ascolta. La Nina sta ballando. We got M in the place who likes it in your face. You got G like MC who likes it on a easy V. You doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. curiosità sul video delle Spice Girls con Wannabe è che c'è una parte dove una delle ragazze scabrosissima toglie il cappello a un vescovo così, e questa parte in Italia era stata censurata. Siete proprio cafonissimi. Musica di merda a parte, vediamo un pochino come non vorrei vedere crescere, diventare grandi delle bambine. E a parte sarà ciò, tutto su questo tema ovviamente. Sì, l'andazzo più o meno è quello. Allora possiamo improvvisare dei rumori orribili per coprire, ecco, un saluto la porta. Ai nostri tecnici, ciao, che sono usciti, amici, ciao, dalla ciao. Regia. Abbiamo una porta che scricchiola. Benissimo. Allora, vogliamo parlare prima di G o prima di V? Dipende se vogliamo andare in ordine cronologico o meno. In ordine di pezzi musicali io direi prima di G. Allora parliamo di G. Perché ho delle perle che voglio assolutamente mettere, più carine dopo G. Perfetto, anche perché questo è un caso abbastanza drammatico, come direbbero su Rai 3 probabilmente. Dan dan dan dan. Come direbbe la Sciarelli. Anzi, più studio aperto. Studio aperto. Parliamo di un caso drammatico, era il 1970 a Los Angeles. Lei era bionda, era bella, bionda. Era dolcissima, ma nascondeva un segreto. Questa bambina, appunto, era il 1970, eravamo a Los Angeles, siamo tuttora perché Jeannie Wiley è ancora viva, per fortuna. C'era questa bambina che a suo discapito era stata appunto, diciamo, segregata e viveva in condizioni realmente non umane. E questo esempio lo facciamo appunto per farvi comprendere chi sono i cosiddetti feral child, o bambini detti anche deprivati, erroneamente definiti come selvaggi. Questo è un caso degli anni 70, è un caso piuttosto recente perché ha 37 anni, se non sbaglio coi conti, ma esistono casi anche molto più recenti, tutti quanti localizzati generalmente nelle zone della Russia e dell'Ucraina, come il caso di Oksana Malaya, una bambina nata nell'83, quindi ora in realtà una donna, che è cresciuta con i cani e dai quali ha poi assorbito il suo comportamento e anche... ovviamente la mancata acquisizione di un linguaggio. Ovviamente. Il suo linguaggio era comportarsi istintivamente come i cani, abbaiare alla gente, mordere e lavarsi o bere direttamente dalla cosiddetta cannella, quindi da una fonte d'acqua, insomma. Parliamo però di Ginny. 1970, Los Angeles. E questa storia ci viene raccontata spesso, troverete molti video su YouTube se vi interessa questo caso, viene raccontata da Susan Curtis, che è una psicologa statunitense, esperta anche ormai di linguistica, che tentò di educare Ginny, questa bambina che viene definita come privata della sua umanità. Infatti nel novembre 1970 Ginny fu trovata rinchiusa e legata in una stanza. Era una ragazzina all'epoca di 13 anni e 7 mesi. Al momento del ritrovamento aveva solamente un pannolino ed emetteva suoni infantili. I genitori infatti l'avevano tenuta segregata per tutta la sua esistenza, completamente lontana dai contatti umani che non fossero quelli con la madre e il padre. E ovviamente il sostrato familiare era molto importante. La madre era una donna con una disabilità cieca, e il padre, il marito, era un uomo violento che si suicidò subito dopo il ritrovamento della bambina. Quindi per una situazione... non essere linciato probabilmente da esatto. Circostante. Io e la nenia sicuramente l'avremmo evirato. E la ragazzina venne chiamata Ginny, perché non aveva un nome all'epoca, fu ricoverata in un ospedale e il suo caso richiamò l'interesse di neurologi e psichiatri inizialmente, che la sottoposero a esami specifici, questi reperti che ottennero poi in realtà parlavano molto chiaro. Le onde cerebrali di Gini non erano normali, sembrava potesse essere sembrava che insomma potesse essere dovuto a un ritardo mentale, oppure sembrava che ci potessero essere stati dei traumi alla testa. Ma il National Institute of Mental Health della scusatemi, di Los Angeles, comprese che questo caso aveva un'importanza discreta e quindi finanza una ricerca per studiare il potenziale e i possibili sviluppi mentali del caso di Gini. Quindi ecco perché siamo arrivati a conoscenza di questo caso. L'incarico fu appunto affidato alla sopraelencata suddetta Susan Curtis, questa psicologa che all'epoca era neolaureata e lavorava con un dottorato di ricerca. Susan Curtis ha dichiarato diverse volte di aver avuto la speranza di poter far acquisire un linguaggio a Gini, e i più sentimentali dicono anche quell'infanzia infelice che le era stata negata. Noi parliamo invece solamente del contesto, diciamo, dello sviluppo linguistico. L'impegno di Susan Curtis nel, tra virgolette, rieducare Gini, anzi nell'educare, perché non aveva avuto alcun contatto con l'educazione, avvenne dal 71 al 75 e si concentrò in particolar modo sugli sviluppi linguistici. Le vocalizzazioni di Gini però erano molto rare e improvvise e non fu possibile documentarle su nastro magnetico, motivo per cui sia io che Neni abbiamo cercato abbiamo cercato materiale, ma non siamo state in grado di trovarlo, proprio perché non esiste, o perlomeno non sicuramente è sicuramente qualcosa c'è, però non è alla portata del pubblico. Esatto. Io avevo trovato qualcosa su Oksana Malaya, ma l'ho risparmiato perché era... Se siete curiosi andate su YouTube o comunque fate una semplicissima ricerca su Google, cercate Feral Child, scritto Feral C-H-I-L-D, Child come Child, bambino in inglese, e troverete tutti questi casi e una serie di audio un po' crudini. Se siete interessati però a comprendere come funzionano questi casi, troverete pane per i vostri denti, ecco. E le vocalizzazioni di Gini, dicevamo, erano molto rare e improvvise, e Susan Curtis comunque continuò a studiare il linguaggio che questa ragazzina aveva sviluppato, se così vogliamo dire, e alla fine raccolse 2500 lallazioni e suoni, tra i quali esistevano solamente due o tre parole. E dopo svariati anni di studio e centinaia di pagine di appunti raccolti, nel 74 venne pubblicato il primo rapporto scientifico, appunto sempre negli Stati Uniti, dove traspariva un cauto ottimismo, se così vogliamo dire, degli addetti ai lavori, perché Gini aveva iniziato a sviluppare una sorta di linguaggio, se così vogliamo dire. Ah sì, e in realtà è un linguaggio più che una lingua, nel senso, non linguaggio come lo intendiamo noi quotidianamente, linguaggio nel vero senso del termine. Quindi non è una lingua, è chiaro, è un linguaggio, è una modalità per far comprendere determinati brevissimi, pochissimi stati, penso fossero due o tre, no? Dove... Sì, era un, praticamente Gini... Ancora, no, lei era, era dello smettila e basta, esatto. Ecco, ok. Era stata esposta praticamente a una... aveva avuto una scarsissima esposizione al linguaggio, praticamente nulla, tant'è vero che si dice che il padre le abbaiasse al posto di parlarle. Quindi che cosa... qual è stata, diciamo, la cronologia dei piccoli successi di Gini? Dopo essere stata sottoposta a un programma di recupero linguistico che nel 1970 riuscì a pronunciare solamente una parola, anzi due, era no e gatto. Nel 71 ebbe invece riuscì a sviluppare un linguaggio simile e paragonabile a quello di un bambino di 18-20 mesi, con una piccola distinzione tra numeri singolari e plurali, quindi una distinzione numerica, e inizia a pronunciare una sorta di nessi, quindi parola-verbo, che comunque dal punto di vista linguistico, anche se non hanno un significato logico, sono comunque una frase. Sì, è l'olofrase, la prima comparsa di la prefrase, l'olofrase, esatto, che è composta di due parole e generalmente una delle due è un verbo o qualcosa di vicino a quello che intendiamo grammaticalmente, appunto, come verbo. Appunto, esatto, quello che fa un bambino di 18-20, esatto, mesi più o meno, per cui volere latte, grande denti, quindi in questo caso abbiamo addirittura un aggettivo e un sostantivo denti. E in realtà non è nemmeno pochissimo, cioè no, come Daso non è poi così, così scarso in realtà, poi esatto, vedremo anche casi peggiori. Il problema è però che dopo questi successi, nonostante appunto a questo momento, in questo momento, a questo livello, gli studiosi appunto del Mental Institute si erano gasati, se così vogliamo dire, però i successi di Gini purtroppo si sono fermati qui, perché nonostante il programma linguistico, nonostante la volontà di recupero, il vocabolario non riuscì ad espandersi, Gini non sviluppò mai una capacità di formulare domande, perlomeno con un ordine sintattico corretto, e ebbe uno sviluppo semantico rapido, ma uno sviluppo sintattico lento. Questo come lo possiamo spiegare? Perché dal punto di vista semantico c'è solo ed esclusivamente il riconoscimento parola, parola-oggetto, quindi l'abbinare, la capacità di abbinare. Come infatti, quando noi con un bambino diciamo, indichiamo una penna, ad esempio un oggetto, gli diciamo penna, il bambino la ripete e immagazzina l'informazione. Anche perché poi lì c'è l'imitazione, quindi è un semplice rispondere con l'imitazione a che cos'è quell'oggetto, però chiaramente a noi sembra tantissimo quando i bambini normoudenti o normodotati lo fanno da piccolissimi, sembra una grande conquista perché poi sappiamo che da lì esplode il linguaggio. In realtà è una base che non va quasi minimamente a toccare la parte neurolinguistica e morfosintattica del bambino, quindi quando si crea sembra l'inizio di un qualcosa, ma non è quello che poi noi ci aspettiamo per la nascita di un linguaggio. Questo è per esempio il livello ottenuto da chi prova a insegnare la lingua dei segni agli scimpanzé, cioè associazione, per cui riconoscimento, segno, oggetto è fattibile, ma perché? Perché ancora siamo a uno stadio pre-morfosintattico e quindi sembra fighissimo. Ah, guarda, ho insegnato la lingua dei segni alla scimpanzé. Ah, guarda, ho insegnato a dire l'astra di Ghisa a Gini. No, in realtà poi mancano tutti gli altri presupposti, esatto, neurolinguistici. E questo caso, appunto, come dicevamo ora, è talmente surreale, ma in realtà ce ne sono stati tantissimi nella storia umana e ovviamente sono stati quasi tutti studiati dai linguisti. Questo caso però è stato talmente, diciamo, importante, tanto che venne anche inserito da Bickerton, non so se mi sto sbagliando, nei fossili del linguaggio. No, non era lui? Mi sto sbagliando forse, sapete qua siamo dei pozzi di scienza. Dopo perché controllo però, quando comunque ho finito di fare questa cosa. Si sostiene che esistessero, anzi che esistano, i cosiddetti fossili del linguaggio. Quindi diciamo delle tipologie e dei livelli di linguaggio che appunto corrispondono alle caratteristiche della nostra specie, quindi già 5 milioni di anni fa i nostri antenati erano in grado di sviluppare un linguaggio. Questi quattro fossili sono più che altro un elenco molto fugace, ma questi quattro fossili possono essere distinti, diciamo, e riconoscibili. Il primo fossile linguistico si tratta, come diceva Nenia ora, delle scimmie antropomorfe addestrate linguisticamente. Sì, era lui. Era Bickerton. Sì, yeah, sì, brava. Ammaestrate linguisticamente il linguaggio dei sordomuti. Dei abbiamo sordi! Esatto. Perché sordo muto, ricordatevelo, è una concezione che non esiste. Esiste il sordo, esiste il muto. Brava, ma Nina. Non esiste il sordo muto. Sennò sai che sfiga averne due. Il sordo parla e parla anche tanto. E parla anche spesso anche troppo. E scimmie antropomorfe, bambine under 2, lingue pidgin che abbiamo visto, pidgin che abbiamo visto nelle nostre puntate precedenti 2 settimane fa, e alla fine, come fossile linguistico, abbiamo anche il caso di Gini. Nonostante sia documentato dal 1971 in poi, anche Gini per Bickerton è entrata a far parte del concetto dei fossili. Anche perché poi quelli erano gli anni in cui ci si interessava a queste novità linguistiche, perché comunque diamo per scontato che ancora non sappiamo quasi niente di quello che accade nel momento in cui il cervello umano è attivo linguisticamente, cioè a parte quello che si può vedere con i vari macchinari che fanno lì è blu, lì è rosso, lì è giallo a seconda di cosa faccio, eccetera eccetera. Ora io non lo so spiegare onestamente, quindi sto zitta, non aggiungo altro, però non sappiamo realmente come facciamo a imparare una lingua, non sappiamo come realmente la nostra capacità neurolinguistica si sviluppi. L'unica cosa che sappiamo è cosa non possiamo fare, quindi non possiamo imparare una lingua se non esposti ad essa. Non riusciamo a creare una versione sintetica della lingua. Esempio, il computer non potrà mai parlare una lingua in maniera completa, in maniera reale, in maniera spontanea, se non con delle frasi fatte, eccetera, proprio perché non sappiamo nemmeno come possa in qualche modo funzionare il nostro cervello. Esatto. Che agisce linguisticamente. Quindi l'unica cosa che non che possiamo sapere è quello che non possiamo fare, punto. E gli anni in cui questi studi hanno iniziato a muovere i primi passi importanti sono gli anni 70, con, dillo tu, dillo. Chomsky! E via via con tutto, insomma, ci sono anche altri personaggi importanti, però diciamo le grosse scoperte le ha fatte Chomsky, o comunque chi ha avuto più coraggio di dire un po' le cose come stavano e come non stavano è stato lui. Esatto. Poi, chiaro, bisognerà farla questa puntata. Ragazzi, adesso, tenetevi forte, perché la puntata su Chomsky non ve la leva nessuno. Questa la voglio dopo le vacanze, perché voglio un po' di tempo per gustarmela. Voi se conoscete il personaggio, quindi Chomsky, sapete che lui spazia dalla linguistica alla storia, alla politica. È veramente onnisciente. Tra l'altro, ieri sera, concerto di Putin Club, ho visto le loro nuove magliette e hanno una frase di Chomsky sul terrorismo. Bastardi, davvero? Che se bello. Ci ascoltano, un saluto anche a loro. Lillini, ciao! Sì, prima o poi va bene, si parlerà anche di lui. Detto ciò, un saluto anche alla povera piccola Gini. Sì. E passiamo. E a tutti gli altri casi che comunque hanno più o meno subito delle menomazioni linguistiche, le chiamiamo così anche se in realtà non si... Sì, lo possiamo dire, perché possiamo effettivamente dirlo, sì. È così, cioè non sei stato sottoposto a uno stimolo così importante come quello del linguaggio, di conseguenza non hai potuto sviluppare la lingua madre che sia, per cui... È una menomazione a tutti. Continuiamo con un pezzo di un bambino che non vorresti avere tra le scatole per Accidenti, casa. Sì. Allora, bene. È lui, ragazzi. Tenetevi forte. C'è dur dur être bébé. pezzo finiva così. Dur, non dur è colpa bébé, nostra. C'est aujourd'hui, avec quatre mois, il était petit. Capito? Ora no. Ora sarà tossicodipendente. Le junkie. È probabile, sì, poverino. Ti immagini a quell'età? Cioè, no, non ci voglio nemmeno pensare. Andatevi vabbè, a vedere il video. Poi magari si pensa. Sì, oddio, che orrore. Vabbè, a proposito di orrori, parliamo di quest'altro povero disgraziato che è stato trovato alla fine del 1700 in una foresta in Francia. Ora vi immaginate la donnina come si vede nel film di Truffaut, non so se è presente. La donnina Quale? Che va a prendere le erbine da mangiare nel bosco sì, e certo. Si trova questa creatura ripiegata su se stessa che corre, zompetta qua e là, tutto nudo, tutto sporco. Siamo alla fine del 1700/1800, ultima vera cattura, in cui questo bimbetto viene per tre volte catturato, due volte riesce a scappare, alla terza lui stesso si arrende perché capisce che questo genere umano civilizzato è bastardo e lo vuole per forza tenere dentro casa. Questo in realtà a mia detta stava benissimo, cioè se la viveva alla grande, ormai aveva circa dai 11-12 anni, la stima più o meno è quella. Aveva passato 11-12 anni della sua vita sopravvivendo a un ipotetico sgozzamento da parte della famiglia che ha provato a sgozzarlo e poi lo ha abbandonato. E questo qui in realtà, stando a terra, però mi pare, queste sono cose che si carpiscono un po' dagli scritti che sono stati fatti da Itard, che è l'educatore che poi si è preso in carico, un po' colpevole anche il film di aver un po' esaltato alcuni aspetti degli scritti. Insomma, sto bimbo sopravvive al tentato sgozzamento, probabile sempre, sono tutte ipotesi, non chiaramente si sa, siamo alla fine del 1700, quindi ecco, non abbiamo nulla di certo. Anche gli scritti di Tard, per quanto siano testimonianze, siano delle relazioni scientifiche, sono comunque delle relazioni scritte da un educatore che per la prima volta fa questo esperimento. Quindi che succede? Prendono questo bimbetto. Itar chi era? Era un educatore che lavorava insieme a Sicard nel quello che era l'istituto per i sordi, che prima per l'appunto venivano definiti sordomuti. Che cos'era? Era questo istituto che rieducava e scolarizzava i ragazzi, i bambini, adolescenti sordi, e li instradava vuoi con la lingua dei segni, vuoi con altri metodi, insomma a seconda dei luoghi, dei periodi. E questo educatore, venendo a sapere di questo ritrovamento, che fa? Si accolla, come diremmo esatto. Noi in maniera... Me l'accollo, lo esatto, fanello. Se lo accolla con l'approvazione di Sicard, che era uno dei grandi luminari dell'educazione dei sordi, e dice bene, lo proviamo a portare qui, vediamo che cosa succede, se è fattibile inserirlo in un contesto come quello dell'educazione dei sordi. On va voir qu'est-ce qui se passe. Eccolo, proprio così, preciso. Che cosa succede? Lo portano all'istituto. Chiaramente si tratta di un bambino, di una creatura di 12 anni circa, con nessuna difficoltà particolare dal punto di vista fisico, se non chiaramente quelle solite, cioè quelle ovvie, tipo non ha mai indossato le scarpe, non si è mai lavato i denti, non è mai entrato in contatto con il calore, quindi con l'acqua calda piuttosto che con le emollienti, per cui ha tutte quelle caratteristiche che si denominavano come selvagge, ok? La cosa più lampante qual era, soprattutto in una Parigi del primi fine 700-1800, non è educato, non riconosce le bellezze di Parigi, non dà baci e abbracci, non è riconoscente per noi poveri educatori che l'abbiamo salvato. In realtà, come si è detto prima, la cosa più grave era proprio l'assenza di linguaggio. In tutto questo iter educativo, che cosa fanno? Provano chiaramente, oltre a fargli, insomma, negli scritti ci sono proprio gli obiettivi fondamentali dell'intervento, tipo la cosa principale sarebbe stata quella di fargli amare la vita sociale, poi si dice tipo il secondo obiettivo risvegliare la sua sensibilità nervosa, quindi con i bagni caldi, con i profumi, eccetera, eccetera. terzo obiettivo, quello di allargare la sfera delle sue idee. Come fai se a fosse farlo? Semplice. Come fai a farlo se questo bambino non ha una lingua? Sì, infatti una delle cose fondamentali, e poi che per noi ora sono quasi ovvie, ma in realtà non potevano ancora esserlo, era che le idee innate non è che non esistono, è che non possono proprio svilupparsi in maniera adeguata, perché se nella prima infanzia la persona, l'essere umano, non viene esposto a tutto quello che è lo stimolo, a tutto quello che è la sfera della vita sociale, non si può sviluppare tutto quello che noi conosciamo come vita sociale. L'esperienza. Esatto. E di conseguenza, ora a parte tutti gli altri vari aspetti, il più importante era quello che voleva insegnare a questo bambino se non a parlare, a esprimere le sue esigenze, quindi a esercitare proprio delle richieste, che in realtà poi lavorando anche con i bambini dal punto di vista comunicativo, esprimere la propria esigenza è una delle cose più difficili in assoluto, laddove si trovano handicap cognitivi piuttosto che sensoriali, eccetera. Quindi che cosa succede? Si riesce a rivestire a modino questo bimbo, a infilargli un paio di scarpe, a fargli apparecchiare la tavola come nemmeno io ancora saprei fare, onestamente, cucchiaio da una parte piuttosto che da un'altra, tovagliolo piegato a modino. Però qual è il problema? Non si porta mai a un buon punto la sua competenza linguistica. Gli si insegna a malapena a ripetere, ma non per richiedere, vada bene, a ripetere solo in presenza dell'oggetto desiderato il nome. Nel caso di Victor, il nome di questo bambino, se non sbaglio, era Latte, perché gli era presa la fissa di portarlo da dei parenti, degli amici, dell'educatore a bere latte dalla mucca o da non so quale bestia. E quindi monosillabo, erano riusciti a fargli ripetere latte, ma non come richiesta, quindi non prima di vedere il latte, ma dopo, quando lo riceveva, come per gratitudine o come semplicemente, è quasi un'ecolalia immediata, si chiama, cioè io ripeto istintivamente una parola che mi viene detta, probabilmente gli dicevano dai bevi il latte e lui ripeteva il latte. Questo è un po' un livello medio che erano riusciti a ottenere. Poi va bene, c'è tutto questo, per chi vede il film lo può vedere, anche carino, volendo, insomma, un bel film. Film di Truffo. Sì, dove tra l'altro lui in persona proprio l'educatore Itali. Sì. Non mi ricordo qual è il nome però del film. Penso sia Ragazzo Selvaggio, sì? Se non erro, sì. Quindi così si chiamano anche gli scritti, le due relazioni che scrisse Itali a quei tempi. Insomma, poi riusciva ad associare il disegno, che so, il disegno delle forbici sulla lavagna, ci riusciva a mettere le forbici concrete sotto. E ripeteva, no, bugia, alla richiesta portami le forbici, lui, il bambino, portava le forbici all'educatore. Questo era il massimo che riuscirono a fare, perché chiaramente non era mai stato esposto alla lingua, quindi non era sordo, perché comunque i rumori, alcuni rumori lì, pareva sentire alcuni rumori, in realtà non essendo abituato ad ascoltare lui sentiva magari dei forti rumori, però non ascoltava, sentiva ma non ascoltava. Lo stesso vale poi per la vista. Però a questo punto mandiamo le cose divertenti. Ah, no? Siete contenti, eh? Allora, ci sarà un piccolo vuoto fra la prima registrazione e la seconda, ma per rendervi felici e per farvi capire che non siamo degli incapaci e attaccheremo benissimo i nostri due pezzi registrati, vi mando subito un pezzo clamoroso. Ciao. Per tutti i bambini che amano l'arte e l'art attack. Che cosa insegniamo oggi? O cercheremo di insegnare oggi, se ce la facciamo, a questi bambini di Coccio, a piegare un foglio in due come si piega un foglio in due? Non lo chiedo a voi, era una domanda retorica, perché la so che voi siete di coccio. Ve lo insegno io. Si prende un foglio di questi modello A4, per esempio, uno, non di più, uno. L'altro lo piegheremo dopo, semmai, no? Bambini di coccio. Si prende il foglio, si curva e si fanno combaciare i lati, gli angoli, così. Poi si tira e poi con la mano si appiattisce e così avremo il foglio piegato in due. Capito? È piegato in due, lo vedete che è differente? Questo no e questo sì, bambini di coccio! E siccome io sono una montatrice di MP3 de goccio, non li farò combaciare alla perfezione, chiaramente. Ma è anche bello così. Bene, bene. Allora, detto ciò, ormai è tutto in registrazione, quindi non siamo in diretta. Ah, beh, il bello della non diretta, vedi, vedi? Allora possiamo dire le stronzate, poi tagliarle, ricucire, far combaciare. E voi non saprete mai cosa è stato detto. Ah, adesso ora, avete attaccato bene i nostri file? Stavamo dicendo digitare 1, digitare 2. Perché amate urgenti digitare. Siamo bravissime anche a pararci il culo nelle situazioni di emergenza. D'altronde. Facciamo sentire subito un'altra cazzata a questo punto, dai. Tanto sferruzza qua, tagliuzza là, non andremo oltre l'oretta. Quale lo vuoi? È lui. Il sex symbol più amato dall'italiano. No, non te lo... No, dici? Lo metto? Lo mando? Lo teniamo per la prossima puntata? Ma cosa dite voi? Lo teniamo? No. No, dai, conserviamolo per la prossima. Ormai questa è andata così. Tanto dobbiamo mettere capito. Solo la puttanata. Giovedì prossimo, parte 2, vi tocca. Allora, per puttanata mi viene in mente... La Clerici. No, il Vaticano o Berlusconi, scegli. È difficile, davvero. No, siamo in tema bambini, scusate. Vaticano, scusa, il tema bambini, dai. Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come ha fatto Mario Monti a tassare gli italiani. Come tassa, nonna? Pensione! E il babbo? L'IVA! E il pendolare? Benzina! I musulmani? Lici! I valdesi? Lici! E Buddha? Lici! E il Vaticano? E il Vaticano? Il Vaticano come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Lui sa che c'è la crisi, però non paga Lici. E l'IMU non hai fatto per Papa Benedetto. Nemmeno l'elemora paga meno di una suora. Il Vaticano come fa? Affitta case e proprietà di immobili e padrone, più di Caltagirone, ma per Rutelli fa la carità. Il Vaticano come fa? Mette un altare nella spa. Così non paga signori, è tutto delle suore. Lo dice anche Bagnasco, con noi il fisco fa fiasco e pagherà Bertone meno tasse di Al Capone. Il Vaticano come fa? Elsa Fornero piangerà di lacrime zampilla come una coccodrilla, ma solo il pensionato pagherà. E va bene, questa era così per divertirvi un pochino. La puntata era sui bambini, ma ha virato sui pensionati. Perché beh, certo. Da come ci auguriamo non crescano i bambini, i ipotetici figli e tutto quanto, a come finiremo, come finiranno chiaro. Anche loro, molto probabilmente. Tanto avete visto, la storia è un ciclo, si ripete. E siamo esattamente punta a capo anche mamma ora, mia! Come 4 anni fa. Eh sì, siamo lì. Sì e no, no e forse, vedrai, siamo sempre lì. Bene, bene, bene, bene. Allora, pipponi li abbiamo fatti. Pipponi li abbiamo fatti, ve li rifaremo la prossima volta perché appunto questa trasmissione purtroppo non è andata a buon fine. Beh no, ma tanto poi voglio dire, uno tra un pochino si mette su il bel podcast e se lo ascolta. Esatto, lì, ve lo ascoltate, dai. Noi ci saremo, voi penserete, ma è stato un problema della mia connessione? Che strano, non l'ho più sentito. Sempre ma... se siamo sicure che stiamo registrando, stiamo anche quest'ultima parte. Sì, ok, sì, perfetto. Sì, sì, sì. No, visto, ormai ci aspettiamo di tutto. Allora facciamo così, diamo una breve lettura velocissima all'agenda della settimana che vede 3 eventi. Allora, venerdì al cantiere a Campi Bisenzio, scusatemi, devo girare un attimo che mi hanno portato via il telefono, ok, venerdì cantiere a Campi, serata a sostegno degli antifascisti fiorentini sotto processo, alle ore 20 la cena e a seguire concerti e... Non ho le informazioni sotto mano perché me le hanno portate via, però a memoria dico punk, trash, hardcore. Hardcore. Venerdì 16, Cani dei Portici, Gordo e Frana, ovvero serata dei rumori al Next Emerson, dalle 22 in poi. I Cani dei Portici sono carinissimi, correte numerosi, accorrete. E sabato 17 dicembre invece abbiamo Next Emerson, serata Benefit Wombat Radio. Grazie amici del Next Emerson. Fico. E abbiamo Romola Sound, Romola Sound System, Just Station, Rama Bass e Imiro Sound. È tutto musica reggae. Sì, sì, molto, molto. Guarda, la radio Wombat che fa bene, fa una grazie, serata grazie, molto grazie reggae. Grazie agli amici che figo. Cercano di farci guadagnare qualche soldino. Allora, ho di nuovo le mie informazioni sotto banco, forse. Intanto che Nenia le cerca, sì. Le ho trovate. Eccole, sulla serata del cantiere, sì, avevo ricordato abbastanza bene, punk, hardcore e trash, ok, prenotazioni, vabbè, lo vedete voi nel sito, non darò numeri di telefono, sabato 17 dicembre, perfetto. Allora, vogliamo ricordare i nostri contatti, certo. Così giusto per... il nostro sitarello bellissimo, wombat.noblogs.org. Bene. twitter.com/radio Radio Wombat Firenze. Anzi, scusate, Radio Wombat. Sono sconvolta, dalla caduta. Dai mali tecnici. Dal male tecnico. C'era il mal sottile. Ma e sì, ma va bene. Tanto noi siamo velocissimi a caricare il podcast. Come ogni volta, fra pochissimo sarà pronto. twitter.com/radiowombatfi come Firenze, facebook.com/radio-wombat-firenze. Ma scusa, ci dicono che siamo nuovamente in diretta. Yo, ma qui ci viene a trovare anche il lama. Meno male, no, il Santissimo, il lui. Abbiamo lui. Dalai Dama. Quello che meno anima, male. Anima le notti. Di guarda, Radio Wombat con i suoi live. Abbiamo avuto delle tragedie radiofoniche. Meno male che qualcuno viene a rincuorarci con un sorriso. È arrivato con lo zaino Invicta, tipo anche, guarda, come liceale proprio. Berrettino, occhiali e zainetto Invicta. E comunque ci dicono che siamo nuovamente in diretta. Ciao, quindi amici. Vi siete persi solo il mio pippone. In realtà, bastardi, avete fatto cadere la radio solo quando parlavo io, maledetti. No, secondo me non ne possono più di noi. Di noi, di me. No, di noi, perché poteva capitare anche a me. Bastardi. È le sabotage, giusto. Le sabotage, le garçons di... Va bene, ma tanto i miei veri ascoltatori ascoltano solo il podcast perché se lo riascoltano con calma, non in mezzo al traffico fiorentino, tra i bebe, e il PM10. Lo ascoltano in salotto con una luce soffusa, una tisana e o barra una birra, meglio, la seconda. E quindi bene, allora, bando alle ciance e alle cazzate. Sono le 20:31, per cui il nostro tempo... Peccato, avevo due pezzi ancora, ne manderò uno solo. Dobbiamo scegliere quale. Allora, io direi di fare una cosa, abbiamo... Ma davvero vi siete persi i bambini di Coccio? Non lo sappiamo. Non lo possiamo sapere. Beh no, comunque in podcast andranno. No, niente repliche. Paganina non ripete, Nina. E Paganenia, esatto, nemmeno. Paganenia e Paganina. Ciò significa che ci rimangono due pezzi stupidi in sospeso e li leviamo. Abbiamo un pezzo serio dei Guerra con 3 R. Che salutiamo, carini. Posta wombat@insiberia.net. Sono veramente molto piacevoli loro. Quindi o mandiamo loro o mandiamo il pezzo che avevamo previsto per la chiusura. Ma a questo punto, infatti, e la chiusura ve la propiniamo la settimana prossima con lo spumante, il panettone e i nostri auguri di Natale. E gli stigazzi, se continuano ancora ad accadere dei drammi tecnici. Io ve lo dico, alla prossima Smadonna in diretta, non mi terrà nessuno. Bene, a questo punto Nikola Tesla, ve lo mandiamo, dei nostri amici Guerra con 3 R. Che ci piace tanto noi del programma di linguistica. Sì, in realtà poi, certo. La mega geminata. Ci sono anche altri pezzi molto belli, io ho scelto questo così, perché c'è anche Pippa Bacca, che non so chi di voi sa. Ah, ecco, vedi. Diccelo. Non lo so. Lancia così a caso. Era una domanda. Googla subito, immediatamente. Nel frattempo dico due cazzate e te me lo trovi, così ce lo racconti. Vediamo. Bene, allora, pipponi a parte gli scherzi. Tanti saluti a tutti. Scusate per. È una scrittrice inglese, mi so. Ah, guarda. Scusate per il disguido. I pezzi, quelli fighi, ve li teniamo anche per la volta prossima. Volta prossima si fa. Diamo qualche anticipazione? Pippa Bacca, pseudonimo di Giuseppina Pasqualino De Varineo, è stata un'artista italiana, nipote di Piero Manzoni. Ah! Da parte di madre, aveva intrapreso fin dal 97 fame che non sei altra. Una performativa. Nata nel 74 e morta in Turchia nel 2008. Uovo e cacca d'artista che non sei di niente. Ora cito tutti i Manzoni che conosco, anche uno che stava vicino a casa mia, ma vabbè, forse è meglio non citarlo perché portava via la spazzatura in mutande. Pippa Quindi Bacca, no. Mi è venuto in mente ora chi è, leggendo appunto la biografia su Google, è quell'artista che è morta durante un attentato in Turchia nel 2008. Addirittura. Yes. Ah sì? Ah no. Triste coincidenza all'Accademia Vedi? Della Brusca. Vabbè. Allora, mandiamo questi amici che ci hanno scritto molto simpaticamente e ciao. Buona? Buona. Ciao, un saluto, scusa, un po' di pubblico qui. Dai, su. Bella roba. Se lo fa la nenia questo fischio ci manda tutti a letto. Lo faccio. No, il microfono non me lo consente. È quasi la puntata di Capodanno questa. Ah sì? No, la prossima porto i botti. Io ho paura. Io ho le castagnole. Dai, si fa. Ciao! Ciao a tutti, ciao. Un bacio linguistico. Ciao! Via!